Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Da anni mi occupo di adozioni di cani. Mi arrivano ogni giorno decine di appelli disperati dalle poche volontarie del Centro Sud che chiedono disponibilità per accogliere cani e gatti che al Sud sono in condizioni miserevoli. La prima domanda da farsi è: come mai al Centro Sud ci sono tanti randagi? Che cos'è un randagio? È un cane che prima aveva una famiglia e poi è stato abbandonato. Se non è sterilizzato, si riproduce. Dunque, di chi è la colpa se ci sono i randagi? È di chi li abbandona e dei pubblici amministratori che non se ne curano. Al Centro Sud la situazione è drammatica. I sindaci non si occupano minimamente dei problemi dei cani vaganti. Alcune volte le ASL sterilizzano i cani e poi li reimmettono nel territorio. I canili sono luoghi di dannazione per quei poveri animali. Molte volte si tratta di canili privati che non ammettono volontari provenienti da associazioni animaliste. Chissà perché. Che avranno mai da nascondere? Questi randagi possono contare solo sui pochi volontari animalisti che fanno sforzi inimmaginabili per provvedere al loro sostentamento, sterilizzazione e cura, e poi li vedono maltrattare e non possono nemmeno proteggerli. Gisella. Questo terribile episodio dei cani inselvatichiti che aggrediscono e uccidono dovrebbe far insorgere i siciliani. Chi conosce un po' quelle zone vede tutti i giorni cani morti lungo le strade e accetta che i propri amministratori si disinteressino di certi problemi e dei cittadini stessi. La Sicilia randagia, che elegge sindaci che non hanno neppure coscienza delle proprie responsabilità, che parlano di tragedie annunciate senza nemmeno sapere che avrebbero dovuto essere loro stessi a fare in modo che non avvenissero. Una Sicilia randagia che ha prosciugato risorse enormi, ma che è rimasta povera com'era, abbandonata a se stessa, non amata e sfruttata da chi la governa e l'amministra. Perché non sento mai lettere di siciliani che protestano, che denunciano, che si sollevano? Io conosco la zona di Modica, dove è successa questa tragedia, e so che la presenza di questi cani abbandonati non è un caso. A quando un po' di civiltà? Quando la gente smetterà di avere quell'atteggiamento di sottomissione psicologica nei confronti di chi la governa, che sa solo ingurgitare stanziamenti di denaro pubblico italiano ed europeo senza che se ne veda investito un solo centesimo? Ora si lamentano, ma sappiano, i cittadini, che la colpa di quanto succede è anche loro. Giulia. Il sospetto che molte aziende utilizzino l'attuale momento difficile e il relativo consenso per attuare politiche di riduzione del personale è più che reale. È indubbio che la produttività cali nei momenti di recessione, ma fin tanto che i ricavi dell'azienda permettono il sostenimento dei costi senza produrre erosione del capitale, nessuno è giustificato nel liberarsi di risorse che nei momenti di crescita avevano fatto la fortuna dell'azienda. Sarebbe come dire che quando va bene guadagno e quando va male socializzo le perdite, o meglio, mi cerco un socio nello Stato che deve occuparsi dei senza lavoro. In conseguenza di questo, per gli over 40 espulsi dal mercato del lavoro, sarà impossibile rientrarvi. La professionalità, la preparazione e la meritocrazia sono completamente azzerate. Schiere di giovani italiani e non, disposti a lavorare con contratti atipici, sono pronti a subentrare, rendendo il sistema sempre meno stabile. Per quelli che vengono espulsi per 1, 2 o 3 anni dal mercato del lavoro, raggiungere una pensione degna di questo nome sarà una chimera. Un disastro sociale dettato da gestioni manageriali poco oculate e soprattutto poco orientate al ruolo sociale dell'azienda. Siamo presi in un gioco che occorre controllare, sul quale occorre vigilare. Come? Non concedendo facili soluzioni a coloro che vorrebbero prenderle a cuor leggero. Bisognerebbe fare in modo che i posti lasciati liberi possano essere rioccupati, per i 5 anni successivi, solo dagli attuali addetti. E solo dopo l'accertata indisponibilità di questi ultimi si dovrebbe poter far ricorso all'assunzione di altre persone. Il periodo di mobilità dovrebbe essere coperto in gran parte dall'azienda. La mobilità e la cassa integrazione dovrebbero essere concesse solo ove vi siano comprovati rischi di andare in rosso. Prima di accedere alla mobilità e alla cassa integrazione, costi che gravano sull'intera società, vanno percorse vie di contrattazione part-time a tempo determinato, di contratti di solidarietà, con riduzione dell'orario per permettere a tutti di lavorare e di fiscalizzazione degli oneri sociali. Una riduzione dei contributi a carico delle aziende del 20% potrebbe dare una grossa mano. Il lavoratore non ci perderebbe, l'azienda guadagnerebbe in liquidità, lo Stato non sarebbe costretto ad erogare sussidi. Meglio prevenire che curare. Alex. Ma possibile mai che tutti ce l'abbiano con i liberi professionisti? Ma lo si è capito che molti di noi sono semplicemente precari per forza di cose? I primi precari della storia. Per pochi farabutti che riescono a non pagare le imposte, quelli come me sono cornuti e mazziati. E come me, tanti tanti altri. Non sono l'unica a pagare e basta. Lo sapete quanti liberi professionisti non riescono neanche a sfiorare il confine previsto dagli studi di settore e simili? Noi dobbiamo pagare tutto, nessun privilegio, nessun aiuto, nessuno. Per ovvi motivi, etico, doveroso o quello che volete, pago solo tasse, non ho nessun bonus e nessuna certezza. Sono pure malata, ma non me ne vanto, e continuo a lavorare come un mulo per accorgermi di stentare nell'arrivare a fine anno. Ma quale fine mese? Se noi lavoriamo sempre, non è detto che si guadagni tutti i mesi. Non siamo fortunati come i dipendenti, pubblici o privati che siano, che aspettano lo stipendio. Nemmeno un'ipotetica pensione futura, nonostante paghiamo l'INPS e molto anche, magari per coprirne i buchi. A me va bene tutto, e sono serena così, ma non rompo le scatole in questo modo ignobile agli altri lavoratori. Alessandra. Alcune considerazioni sui dipendenti del comune di Portici, arrestati con l'accusa di assenteismo. Se all'assenza di questi dipendenti pubblici non è corrisposto un disservizio, queste persone non servono e non vanno sostituite. Il pesce puzza dalla testa, ovvero chi è o era a capo di queste persone è il vero colpevole di quanto è successo. Ha assunto persone non necessarie, non le ha gestite correttamente, non ha controllato il loro lavoro, non ha valutato i risultati. In un'azienda privata, il manager sarebbe stato licenziato insieme agli assenteisti. Maria Grazia. Un plauso all'America che condanna il finanziere di New York Bernard Madoff. A noi invece con gli arresti e i processi non viene in tasca niente, anzi, dobbiamo pagare tasse anche sulle inchieste. Direttori di banca, manager di imprese, dirigenti statali, politici, finti finanzieri, broker, dovrebbero restituire i soldi dalle loro tasche a quelle degli impiegati, operai e pensionati. Questo non ha niente a che fare con la politica sociale che in qualunque momento dovrebbe essere presente in una società, perché i deboli ci sono sempre, sia con la crisi che senza. Solo le persone sono responsabili di quello che hanno fatto con le loro attività di finanza allegra. Queste si sono indebitamente arricchite e quindi devono pagare, restituire, anziché chiedere spudoratamente stati di crisi, cassa integrazione, eccetera. Tanto a pagare sono sempre gli stessi. Rosanna. Egregio direttore, si fa un gran parlare dello stato di salute delle banche italiane. Qualcuno arditamente ha detto che le nostre banche si sono salvate perché non parlavano l'inglese. Non è sufficiente, visto che hanno contribuito alla realizzazione di uno dei più colossali fallimenti europei, quello della Parmalat. Le banche italiane, se si sono salvate, lo devono soltanto al differenziale dei tassi riconosciuti ai depositanti e richiesti alla clientela, tra il 7 e il 10%, il doppio della media europea. Quindi solo i depositanti sono stati gli artefici di questo presunto successo. I clienti, infatti, hanno scaricato il costo degli interessi sui loro prodotti, secondo una elementare regola di mercato. Ho detto presunto salvataggio, perché vorrei conoscere la consistenza dei prodotti derivati fatti sottoscrivere a comuni, province e regioni per assicurare loro, nel tempo, il valore dei tassi di interesse da pagare. Fortuna che nella scorsa legislatura il governo ha deliberato che le autorità pubbliche non potessero più sottoscrivere simili prodotti finanziari. Non mi accontento di leggere i primi risultati di bilancio presentati dalle banche, in quanto penso siano validi solo per il conto economico, ma temo per quelli patrimoniali. A sostegno di questi sono stati generati strumenti quali Tremonti Bond. Per concludere, un comico sere fa ha detto che le banche attualmente non erogano denaro perché non sanno ancora come fregarlo alla clientela. Che avesse ragione lui? Lettera firmata. Cara Radio 24, mi permetto di sottoporti un'idea che da solo non avrei la forza di divulgare. Dopo tanto aver sentito parlare dell'opportunità di abolire le province, proposta che di tanto in tanto si riaffaccia anche sugli organi di informazione, senza mai riuscire a concretizzarsi, nonostante dei vaghi «siamo d'accordo» di molti politici, abbiamo con le prossime elezioni provinciali una bella opportunità. annulliamo la scheda scrivendoci sopra «abolire le province». La consultazione elettorale si trasformerà così in un, sia pure non ufficiale, referendum. L'essenziale è che le schede nulle siano ben contate e che gli organi di informazione diano resoconto di quanti voti tale referendum avrà preso. Che ne pensate? Ivo. Scrivo a proposito della scelta dell'ex PM di Catanzaro, Luigi De Magistris, che ha deciso di candidarsi nella lista dell'Italia dei Valori per le prossime elezioni europee. Vorrei capire perché i magistrati che hanno attribuito il fallimento delle loro indagini all'ingerenza e all'arroganza della politica, alla prima occasione corrono a farsi eleggere. Visto che la giustizia non interessa più nessuno, tanto vale farla amministrare ad ex Galeotti, con la speranza che alle prime difficoltà non corrano dagli elettori. Renata. Ho quattro scelte possibili: adeguarmi al sistema e approfittare anch'io di ogni occasione, mantenere la mia integrità e combattere per cercare di cambiare le cose, mantenere la mia integrità e rassegnarmi al peggio, raccogliere i miei quattro stracci e andarmene. Mi guardo intorno e l'ultima mi sembra la soluzione migliore. Alfredo. Caro Alfredo, c'è una celebre frase di Tommaso Moro che dice: che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare, che io possa avere soprattutto l'intelligenza di distinguere le une dalle altre. Molto spesso, soprattutto quando guardiamo alle sorti di questo nostro paese, appare più che giustificato un senso di rassegnazione di fronte a una politica che sembra impegnata solo a attuare compromessi al ribasso, a esercitare l'arte del rinvio, a perdere le occasioni per dare esempi di coraggio e di concordia. Ma resta un fatto fondamentale: questa nostra Italia è un paese in cui c'è ancora, per fortuna, una grande libertà. Certo, anche quella di andarsene, ma soprattutto quello di fare ognuno la propria parte con una forza di adattarsi e di creare occasioni nuove. La libertà è un bene prezioso, va usata bene da parte di tutti. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.